Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Siamo tornati e non ci resta che ringraziare voi tutti per la cortese attenzione, e ringraziare anche Luca Giulio per la regia e rinnovare l'appuntamento che si protrarrà chissà fino a quando, di domenica in domenica alla medesima ora di domenica prossima. Grazie a tutti per il vostro ascolto. Buona settimana, alle 12:30 di domenica, in punto naturalmente.